Dopo il grande successo del microfono che scotta e la sola dell'avvenire, finalmente in onda su queste frequenze. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Parola per sé! Con la partecipazione di Santa Milva Daceri e il premio Nobel di femminismo e pratica Io voglio praticare, Zarina. Put by Big Mama Simona and Francisca. Autonarrazione. Parla per te. Esperienze. Parla per te. Racconti. Parla per te. Voci. E parla per te. Vita e miracoli. Parla per te. Lavori, sogni e bisogni. Parla per te. Impegni, impicci e capricci. Parla per te. Diciamo già difficile per una donna inserirsi in ambienti lavorativi in cui si riproducono dinamiche di machismo, dinamiche di sopraffazione, dinamiche di che queste donne ti aspettano da te molto di più. Cioè devi fare la servitora anche nel lavoro, ti inquadrano come quella che deve, comunque se ti chiedono un favore tu devi essere sempre pronta a soddisfarlo, anche se non è il tuo primo impegno o la tua prima occupazione a cui ti devi rivolgere. Quindi è più difficile uscire fuori per una donna, e quando non hai la possibilità di allenarti sei emotivamente più fragile, e questo secondo me uno dovrebbe vederlo in prospettiva, perché la disoccupazione che oggi vivono, il precariato diciamo, che è così esteso, che vivono le donne, diciamo incide sulla sfera emotiva, emozionale della donna in modo pesante. My father could use a little mercy now. Fruits of his labor falling right slowly on the ground. His work is almost over, it won't be long, he won't be around. I love my father, he could use some mercy now. Io lo sto vivendo personalmente, vedo che non condiziona veramente l'aspetto di vita economica, cioè la parte materiale della vita, nel senso che non hai soldi per pagare le bollette o devi fare i conti per vedere quello che puoi comprare al discount o cose di questo tipo, di ordine pratico. Ma c'ha un impatto sulla vita emotiva e relazionale della donna molto forte, nel senso che amplifica tutti degli aspetti di sicurezza, di non distinguere tra una sfera privata, personale e la sfera diciamo pubblica o professionale, che si complica nella dimensione femminile, in cui comunque l'ambito storicamente diciamo è più recente questa emancipazione della donna dalla sfera privata, domestica, all'ambito pubblico, anche se noi ormai lo diamo come una cosa acquisita, ma in realtà fino a 30 anni fa la maggior parte delle donne era casalinga. E questa diciamo acquisizione così recente non ha ancora provocato delle modificazioni consolidate nella donna, nel senso di sapersi gestire nella sfera pubblica come un uomo. My brother could use a little mercy now. He's a stranger to freedom, he's shackled to his fear and his doubt. It's almost more than living where they lie. I love my brother. He could use some mercy now. Stai in un ambiente di lavoro che è esterno al tuo ambito privato, e appunto io poi mi trovo anche adesso a fare dei lavori in casa. Però diciamo proprio il fatto di dover uscire dalla casa, trovarti in un contesto che non è il tuo ambito privato, crei come una maschera, no? Cioè come se ti estrai dalla tua emotività e riesci ad individuare di più la tua parte professionale. Cioè la parte applicativa delle tue conoscenze, e la vedi applicata a un contesto che è esterno a quello tuo privato, domestico, e quindi ti aiuta a creare come uno schermo fra la tua parte emotiva e la parte di interazione, la parte di applicazione professionale di quello che fai. Quindi quando non c'è questo ambito esterno alla casa, quando viene a mancare la tua applicazione lavorativa fuori dalla casa, si mischiano, a me mi è trovato di vivere proprio dei disagi emotivi, cioè di non controllare, controllare meno facilmente le mie emozioni, o ecco, si sovrappongono di più i piani. Spiegazione, perché noi facciamo parte di una cooperativa che ci ha offerto abbiamo cominciato a lavorare, siamo in tutto 9 donne, le quali sono tutte 9 sotto cassa integrazione e alcuni uomini, ma pochi, sono 4 mi pare su 24, siamo 9 donne, 6 sono rimaste, gli hanno lasciato il lavoro. E noi, diciamo, il gruppo più grosso delle donne sono state messe fuori dal lavoro e messe sotto cassa integrazione, siamo state sfruttate, proprio questo, cioè, sottopagate, perché avendo il caporale alle spalle, quindi devi mangiare più il caporale e poi il padrone della cooperativa, o ditta che sia. E abbiamo lavorato, ci siamo spaccate la schiena, essendo operaie, stavamo nel settore delle pulizie. E poi un bel giorno, niente, ci hanno detto che, in poche parole, che il lavoro era finito e ci hanno messo sotto la concentrazione. I feel the earth move, under my siamo state sfruttate e anche abbastanza minacciate, cioè se uno si doveva mettere in malattia le dicevano che il lavoro rimaneva scoperto, quindi rischiavamo il posto di lavoro in continuazione, E quindi anche con la febbre, o non febbre, si andava a coprire i turni perché devono essere sempre coperti i turni di lavoro, non devono essere mai lasciati soli. E sempre con la speranza che poi dovevamo essere assorbite dalle nuove ditte che sarebbero entrate. Invece, questo anche per la parola che avevano dato alcuni sindacati, invece questo non è successo. E noi donne ci siamo ritrovate tutte quante, chi col mutuo da pagare, chi è sola, chi è vedova e mamma di tre figli, e cioè praticamente ci siamo ritrovate senza lavoro, chi si deve mantenere da solo, chi ha un affitto come me da pagare di 400 euro al mese e su 900 che ne guadagnava. Quindi ci siamo ritrovati così sfruttate e poi in un secondo tempo siamo state messe appunto subito sotto cassa integrazione, abbiamo accettato di fare a rotazione, cioè anche facendo il lavoro degli uomini, perché visto che secondo me non c'è nessuna differenza tra un uomo e una donna, quindi abbiamo accettato anche di fare il lavoro degli uomini. همجية ما استفدتوا منا حجي سياسية مخدرات تبيعوا مننا الأطفال اللي ما عنده حد يحميله باب الدار الدولار أخمل من دم الأطفال ها اختصار لما أتسكر هنهار بتهلك الأعصاب دني بتطلع بخار بقول الله يسترني سقط هالنحس وضربني بفضل إنه الله يقدرني All'inizio è successo questo, che entrate in aeroporto ci siamo trovati il sindacato sotto subito per fare le tessere, anche siccome vengo da un po' di infarinatura politica ce l'ho con i compagni, e praticamente come siamo entrate siamo state subito avvicinate dal sindacato con il fatto di fare la tessera, perché loro dicevano che con la tessera, bene o male, un domani saremo state protette per entrare fisse coi nuovi proprietari. Anche io non ho accettato, cioè dicendo questo, le sue parole, vabbè, io adesso la lotta la faccio, perché prima voglio vedere che potere ha il sindacato su di noi. Ma ho ragione io, il sindacato su di noi non c'ha nessun potere, perché siamo state escluse dal lavoro. Quelli che già c'erano, che facevano parte di queste, diciamo, che facevano parte di questo, diciamo, di queste, come si dice, impresa, che già lavoravano lì, perché facevano parte di questa famosa ditta, posti di ristoro, quelli erano già, cioè erano stati, diciamo, bene o male protetti dal sindacato, ma il sindacato lì era di quella di quel ditta per cui già c'è di questi posti di ristoro. Quindi questi posti di ristoro, era nato un sindacato che proteggeva i lavoratori di questi posti di ristoro, ma noi UIL, o dico perché non me ne porta niente di nessuno. Quindi che è successo? Che io mi sono imposta, ho anche avuto una discussione più di una volta perché non ho fatto la tessera, ma io ho sempre risposto che il sindacato mi deve far vedere quando è forte, quando è il momento che ci deve far rimanere. Ma infatti non ci ha fatto rimanere, perché di noi non ci hanno proprio calcolato, hanno calcolato solamente quelli che facevano parte di questi posti di ristoro con questo loro, non noi. Noi eravamo una cooperativa che era entrata a fare le pulizie, ma eravamo poche, eravamo in 5 e 6 si è aggiunta un'altra persona, ma è stata sempre male. Alla fine poi in 5 dovevamo coprire 16 ore, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, 8 ore per uno facevamo per 5,40 euro. Beh, c'avevamo il caporale, giusto? Cioè non è che mangiavamo, cioè non dovevamo mangiare, ma chi doveva mangiare erano le restanti persone su di noi. Abbiamo sempre accettato, i soldi servivano, quindi per accumulare 1.000 euro, dove cercare di lavorare più possibile, cioè lavorare anche giorni in più, magari se ci si riusciva. Quindi il sindacato ha fallito, cioè non ha fallito, era proprio partito fallito, perché per noi che venivamo da una cooperativa dovevamo avere un sindacato nostro che ci avrebbe protetto. Quest'altro sindacato non ci poteva proteggere perché noi non avevamo la stessa etichetta che ci avevano loro. Le colleghe mie che erano meno esperte di queste cose, che io l'avevo avvisato, dico non fate tessere perché questi non vi possono fare niente, non ci possono fare niente. E così è stato, perché noi al 1° febbraio ci siamo trovate fuori. Dal 1° febbraio. Poi abbiamo trovato una sindacalista, veramente una brava persona, la quale ha preso in mano la situazione nostra e ce l'ha portata avanti. Adesso possiamo dire che abbiamo una cassa integrazione in deroga a giro, dove cominciamo a prendere, cioè almeno perlomeno c'è, cioè, chi si può pagare l'affitto e chi si può pagare il mutuo. Ma con la CISL. Con la CISL. Sì, ci siamo trovate bene con. Ma questa è proprio una persona, una che combatte. Mi piace perché la vedo proprio abbastanza forte. Quegli altri sono tutti spariti. Questo è il sindacato. Appunto, io dico, secondo me il sindacato è corrotto perché fa solamente il favore degli imprenditori. È una questione di soldi e non c'è più il sindacato di una volta. Ovviamente. And so once again, my dear Johnny, my dear friend. And so once again, you are fighting us all. And when I ask you why, you raise your sticks and cry, and I follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you've earned, but I can remember all the good things you are. And so I ask you please, Can I help you find the peace and the star, oh my friend? What time is this to trade the handshake for the fist? Per una persona come me che tra parentesi non ha mai lavorato, sono 2 anni che lavoro, con l'età che ho di 54 anni non è stato facile, però insomma me la sono cavata fino adesso. Did I make you feel like you were the only man? Yes. Oh, didn't I give you everything that a woman possibly can? Honey, you know I did. Poi mi sono separata e ho deciso di cominciare a lavorare per mantenermi da sola, insomma, ce la devo fare in qualche modo, no? Sono una donna, quindi anche se diciamo fisicamente magari non posso essere forte come un uomo, però ce la devo fare ugualmente, no? Vedere se riuscivo comunque sia da sola a camminare con le mie proprie gambe. E quindi piano piano ce l'ho fatta, anche se ho cominciato tardi, a 52 anni, però ce l'ho fatta, insomma. E sono contenta di questo e spero che anche le mie amiche, le mie colleghe che stavano con me al lavoro potranno anche loro, insomma, continuare a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso, seriamente, forse più serie degli uomini stessi. Questo ultimo anno mi sono impegnata facendo una scuola d'aiuto cuoca per migliorarmi ancora di più e ho fatto la scuola che è finita a gennaio, poi mi sono fatta un mese di stage nei ristoranti, premetto che non avevo mai lavorato dentro un ristorante e quindi spero che insomma in un modo o nell'altro mi trovo un lavoro. Andavanti, avanti, cioè non è che penso che vada avanti alla vecchiaia, penso che vada avanti migliorarmi insomma, ecco, ancora di più. Speriamo bene, speriamo di essere assorbite dalla nuova ditta, insomma, ma non solo per me, ma per tanta gente, voglio dire, perché purtroppo cioè un sacco di donne che stiamo senza lavoro, o vai a fare la donna delle pulizie dentro le case, o vai a fare le badanti, su questi lavori che uno poi dell'età mia specialmente, dell'età nostra, che la maggior parte delle donne che stavano lavorando lì sono tutte dell'età mia, quindi sono tutte persone che sono grandi, di 50 anni, 52, 55, sono tutte donne grandi che si sono trovate con un muro alle spalle loro, e senza lavoro, anche che loro hanno i mariti e sono sposate, perciò bene o male sono cioè se non lavorano sono un po' parate, diciamo, no, perché hanno i mariti alle spalle e gli danno una mano, però c'è pure chi è vedova e che non percepisce la pensione, perché magari è rimasta vedova a 45 anni e non percepisce la pensione, e che ha 3 figli magari che studiano e non sa come tirare avanti, e quindi che magari va a fare un lavoro delle 8-9 ore per guadagni 500 euro al mese, e cioè la cosa, cioè io penso che siamo ritornati indietro, cioè le lotte sono state fatte nel 68, le abbiamo perse tutte durante questo cammino, perché lì siamo da capo a 12, quindi take another little piece of my heart now baby, I'm gonna break it. break another little piece of my heart. Now, darling, yeah, yeah, yeah, just have it. Have another little piece of my heart now, baby. I'm gonna take it and take another little piece of my heart now, darling. Yeah. So take it, take another little piece of my heart now, baby. I'm gonna break it, break another little piece of my heart now, darling. Yeah, yeah, yeah. Just have it, have another little piece of my heart now, baby. Another little piece of my heart now, darling. Yeah. So take my heart, take you break my heart, you have my heart. Baby. So take my heart, you take my heart, take you break my heart, you have my heart. You know you got it anyway, oh baby. Take my heart, take you break my heart. No, siamo tutti uniti per questo, abbiamo fatto proprio un blocco, abbiamo fatto anche un blocco abbastanza consistente, proprio abbiamo, secondo me, tramite anche la nostra sindacalista, che è una brava persona, cioè abbiamo ottenuto parecchio fino adesso da, anche da, diciamo, da, dalla regione, abbiamo ottenuto parecchio, perché sennò altrimenti veramente se davamo retta alla cooperativa noi ci trovavamo veramente senza soldi e senza niente. Perlomeno adesso possiamo lavorare un mese per uno, poi magari per esempio le altre donne che magari hanno i mariti, loro dicono vabbè al limite al mese che ti devo andare io vai te che tu guadagni di più, sto a casa, cioè c'è parecchia solidarietà su questo, cioè siamo un bel gruppo. Specialmente noi cinque dico sempre che siamo come i pulcini, no? Perché se uno prende cinque pulcini appena nati, li fa stare insieme dentro una gabbia due mesi, poi li prende, li mette dentro un pollaio dove ci sono tanti polli, e le cinque galline comunque si è stato sempre insieme, si distaccano sempre dai polli, da tutte le altre galline. Noi cinque siamo un po' così, devo dire la verità, siamo sempre in contatto, si organizzo magari due scene, poi a casa mia, perché no, più finisci, no, mi raccomando, allora se si come per cucina. Comunque no, è un bel gruppo, molto solidale tra noi siamo, per fortuna, perché questo non succede tra donne, e siamo tutte in gamba, devo dire la verità, tutte quante, anche quelle altre che magari eravamo meno in contatto perché eravamo in due proprio posti diversi di lavoro. Noi no, eravamo proprio queste cinque specialmente, erano cinque galline belle unite. Ah, oh, un bel pollaio siamo, tuttora. Sono contenta perché insomma, cioè ti ho detto, non l'abbiamo presa tanto male, non ci stiamo a tenere addosso. Questa è carina la cosa e ci siamo fatte valere finalmente pure davanti a loro, ai padroni che ci davano lavoro, ci siamo finalmente fatte valere i nostri diritti. Questo è importante, ora sono la forza di volontà e voglia da combattere, finché c'è la voglia da combattere si va avanti, e questo lo dico a tutti, uomini e donne, bisogna sempre combattere e mai abbassare la guardia. Oggi speriamo bene che ci siamo andati bene dalla parte, insomma, vediamo, però la cosa bella è che ci siamo fatti la letto su queste persone, perché quando ci hanno ricattato per l'ultima volta che ci hanno detto, ah, vuol dire che se facciamo a giro questa volta perdiamo l'appalto, io gli ho risposto, e questa volta gli dico sono problemi nostri, a noi ce ne può fregare di meno. Questa è la risposta. Oh.